sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Ci fu mancato allarme per il terremoto dell'Aquila, indagata con questa accusa la Protezione Civile. Verso casa gli attivisti italiani arrestati da Israele, non rispettati i nostri diritti, dice Manuel Zani, che è già a Roma. Nuova bacchettata dell'Europa, le donne del pubblico impiego vadano in pensione a 65 anni. È stato un sex symbol, ora è sola e povera, l'appello dell'amico Lino Banfi per Laura Antonelli. Buona giornata dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati e cominciamo con una notizia dell'ultima ora che è arrivata proprio pochi istanti fa. La Procura della Repubblica dell'Aquila avrebbe notificato avvisi di garanzia relativi all'inchiesta sul mancato allarme per il terremoto di un anno fa. L'accusa, sulla base di un dossier della polizia, è quella di omicidio colposo e tra gli indagati ci sarebbero i vertici della Protezione Civile, autorevoli sismologi e tecnici del dipartimento. I rilievi furono consegnati alla magistratura lo scorso aprile. Per il momento non ci sono altri particolari, ve li daremo se ci saranno nel corso del giornale. È atterrato, voltiamo intanto pagina, all'aeroporto di Fiumicino Manuel Zani, il primo dei sei attivisti italiani coinvolti nel blitz israeliano contro la flottiglia di pacifisti diretti a Gaza. Gli altri arriveranno nel pomeriggio a Milano, mentre uno è ancora a Tel Aviv. Ci hanno picchiato, è stata l'accusa lanciata da alcuni pacifisti. Queste invece le prime parole di Manuel Zani. Come sto? Sto bene, sono stanco, siamo stati trattati in maniera abbastanza normale, anche se ovviamente i nostri diritti non sono stati minimamente rispettati dal momento del sequestro fino al momento del rilascio. Nessuna telefonata ci è stata concessa, la nostra ambasciata è stata anche a quanto pare ostacolata nell'ottenere informazioni riguardo a noi. Siamo documentaristi e siamo là, eravamo là per seguire appunto il viaggio della flottiglia, per documentare quello che succedeva, io e Manolo Lupichini, anzi Manolo Lupichini ed io. E Manolo è ancora là, non so bene se torni oggi e quando torni, non so cosa gli sia successo perché ieri siamo stati divisi e mi pare una cosa abbastanza comunque scandalosa che neanche il diritto, neanche la libertà di stampa venga più ormai rispettata in Israele. Così Manuel Zani, intanto ormai è ufficiale che dei 9 attivisti morti durante il raid israeliano, 8 sono turchi, uno è un americano di origine turca. In queste ore intanto c'è un'altra nave diretta verso Gaza. Allora andiamo da Roberto Bongiorni, com'è la situazione lì, che succede? Sì, buongiorno a tutti. Dopo le giornate di lutto e le serate dei negozi, Gaza sta ritornando alla normalità, il valico di Rafah, il confine tra l'Egitto e la striscia, è ancora aperto, migliaia di palestinesi si sono accalcati per poter passare, ma saranno autorizzati ad entrare solo chi ha bisogno di cure mediche e chi ha un regolare permesso. L'apertura del valico è comunque un segnale dell'Egitto in risposta alla raid israeliana contro la flotta di aiuti umanitari. Il movimento islamico Hamas ha però dichiarato che non raccoglierà gli aiuti che si trovano a bordo delle navi che Israele ha lasciato sul confine tra Gaza e Israele. Ma qui nella striscia c'è un altro giallo, la sorte della Rachel Corries, la nave di aiuti irlandesi che dovrebbe cercare di forzare l'embargo navale israeliano in questi giorni. Fonti diplomatiche europee hanno riferito che l'imbarcazione potrebbe già approdare nel weekend, ma al porto israeliano di Ashdod. Israele poi si accollerebbe il compito di trasferire gli aiuti via terra. I palestinesi qui però continuano a sperare, sperano che la nave arrivi a Gaza, come per l'altra volta stanno già preparando striscioni e bandiere per accoglierli. E da Gaza è tutto. Grazie a Roberto Bongiorni. In Italia intanto da domani fino a domenica la Casa del Cinema di Roma ospita il festival Yallah Shebab. I ragazzi palestinesi e libanesi si raccontano attraverso il cinema. 3 giorni di cortometraggi, documentari, film d'animazione con il coinvolgimento degli studenti delle scuole delle capitale. Un progetto promosso dal Ministero Affari Esteri e dai volontari dell'associazione Un Ponte Per, che naturalmente cade in giornate un po' particolari. Allora il direttore di Un Ponte Per, Domenico Chiricolo, ha intervistato Maria Chiara Grandis. Il festival nasce dal lavoro di un Pontepère in Libano, soprattutto nei campi profughi palestinesi negli ultimi 10 anni. Il significato che noi vorremmo dare a questo festival ora è anche legato agli ultimi eventi. Infatti vorremmo dedicare il festival alle vittime innocenti della flottiglia per Gaza. Rispetto a un ulteriore significato che ci piacerebbe dare è legato nello specifico al progetto del festival, che vede l'incontro fra ragazzi palestinesi, libanesi ed italiani, e quindi un percorso di conoscenza reciproca che speriamo possa portare, come dire, costruire dialogo e costruire percorsi di pace. E noi voltiamo pagina, c'è un nuovo ultimatum della Commissione Europea all'Italia: se non si equiparerà immediatamente l'età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico, sarà nuovamente deferito il nostro paese alla Corte di Giustizia Europea. L'avvertimento sarebbe contenuto in una nuova lettera che Bruxelles ha inviato alle autorità italiane. L'equiparazione comporterebbe l'innalzamento per le donne dell'età pensionabile a 65 anni. Un incontro a Bruxelles ci sarà già lunedì prossimo, fatto sapere il ministro del welfare Maurizio Sacconi. Confcommercio guarda alla crisi, questa mattina il rapporto del settore, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Tempi duri per le imprese del commercio e del turismo che stanno ancora smaltendo gli effetti della crisi. Solo nel primo trimestre 2010 hanno chiuso 8.000 esercizi. Il rapporto di Confcommercio sottolinea come soprattutto le microimprese, i negozi, gli alberghi, i ristoranti, i settori più prossimi al consumatore finale siano stati gli ultimi a entrare nella crisi e per questo saranno gli ultimi a uscirne. La fase più acuta della crisi è sia alle spalle, ma si naviga ancora a vista, secondo Confcommercio, che per il 2010 prevede un PIL a più 0,7, consumi a più 0,6%, ma sentiamo il presidente Sangalli. Sono dei segnali di ripresa, questo è un dato positivo, però sono ancora segnali timidi e discontinui. Certamente bisogna irrobustirli e bisogna accelerarli, e per fare questo occorre certamente una politica che vada sul versante delle piccole e medie imprese e dell'impresa diffusa, che costituiscono più del 97% della produzione italiana, e anche sulla scorta degli ultimi orientamenti europei questa politica ne favorisca la crescita. Confcommercio, scusate, in particolare chiede più accesso al credito per le piccole imprese, sostegno alla riqualificazione del capitale umano, incentivi fiscali, investimenti in ricerca e sviluppo. Ed ormai è tutto. E grazie ad Alessandra Schepisi. Naturalmente la crisi animerà anche le discussioni al Festival dell'Economia di Trento, che si apre oggi con tema informazioni, scelte e sviluppo. Quanto conta la propaganda nelle scelte di politica economica? Quanto incide la trasparenza sul buon funzionamento dei mercati? Il direttore scientifico Tito Boeri. Effettivamente l'informazione è stato uno degli aspetti che ha portato alla degenerazione della crisi. La crisi è nata perché c'erano delle informazioni asimmetriche, alcuni agenti avevano delle informazioni, parliamo di banche in particolare, altri non ce l'avevano e quindi hanno smesso in qualche modo di scambiarsi fondi tra di loro, prendere a prestito, perché non si fidavano più le une delle altre. L'informazione è centrale anche per capire le vie d'uscita dalla crisi, perché effettivamente le misure di riforma, di regolamentazione dei mercati finanziari dovrebbero proprio avere come aspetto centrale quello di risolvere questi problemi di asimmetria informativa e di evitare che si possano sfruttare per poi mettere in piedi delle istituzioni che sono instabili e che poi possono portare al collasso dell'intero sistema. E poi l'informazione è molto importante in questo momento anche per altri motivi. Abbiamo un'industria dell'informazione che è in crisi, questa la rende particolarmente soggetta a pressioni della politica, del potere economico, e quindi anche di questo ci occuperemo molto al festival, di come si possa in qualche modo tutelare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio di chi fa informazione. Radio 24 seguirà anche quest'anno il festival con servizi nei giornali radio e trasmissioni dedicate ad alcuni dei temi toccati. Al festival dedicheremo anche uno speciale in onda domenica alle 18:30. Strascichi polemici dopo la festa del 2 giugno, prova a chiuderli oggi il ministro Roberto Maroni e Elisabetta Fiorito. Sì, il giorno dopo le polemiche sull'assenza dei leghisti alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali interviene il ministro dell'Interno Roberto Maroni. La mia assenza è solo un polverone inesistente. Sono 10 anni che festeggio a Varese. Sono sorpreso della sorpresa del capo dello Stato. Maroni poi fa notare l'assenza degli altri esponenti del governo, tra cui Tremonti. L'Italia dei Valori però attacca per Leoluca Orlando. Maroni deve dare spiegazioni a Napolitano e al paese, mentre il Secolo, il giornale degli ex DN, controreplica. Maroni preferisce il concertino al Pienone ai Fori Imperiali, festeggia a Varese con le canzoni di Boccelli e Paoli. Poi ricordiamo che c'è stato proprio ieri l'irritazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per l'assenza dei ministri leghisti e soprattutto per Maroni. Chiedete a Maroni perché non c'erano, erano stati invitati tutti i ministri, ha detto il capo dello Stato, ognuno avrà le sue buone ragioni. Il premier Silvio Berlusconi invece ha fatto notare l'assenza del segretario PD Pierluigi Bersani. E per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito, la ritroveremo anche alle 13.30 con Italia in controluce per parlare dell'Italia e della festa della Repubblica. Un'altra polemica intanto che riguarda, è scatenata sempre da un altro ministro della Lega, è il ministro Calderoli, che promette di tagliare gli stipendi d'oro in Rai, altrimenti dice va rivisto il canone. La sua proposta era l'oggetto del nostro sondaggio questa mattina a Radio 24, vi chiedevamo se eravate d'accordo con la dichiarazione di Calderoli. L'84% di voi ha risposto sì. In Rai c'è chi ha già fatto sua in qualche modo la proposta, è Stefano Campagna, conduttore del TG1 della notte, che ha fisso in bacheca Viale Mazzini il suo stipendio rendendolo pubblico. Sentiamo. Ho voluto fare una piccola operazione di trasparenza. Io guadagno 3.200 euro al mese. Ho 48 anni e sono capo servizio e conduco il TG1 della notte, quindi ci sono anche spese di abbigliamento e tintoria a carico del giornalista. Non mi sembra uno stipendio d'oro, ditemelo voi se è uno stipendio d'oro, insomma. Era in realtà un gesto che rispondeva anche ad una critica di corridoio, non farò i nomi, ma due colleghi conduttori sostenevano che io andassi a dire in giro quanto guadagnassero loro, che guadagnavano nelle parole di corridoio più di me. Gli stipendi Rai, avete parlato di cifre assurde, perché Fazio guadagnasse 1 milione anziché 2, mi quereli pure, mi sembra una cifra gravissima. Il sondaggio così questa mattina, l'84% di voi ha risposto sì, in Rai ci sono stipendi d'oro. Con il suo sex appeal al cinema ha fatto sognare uomini adolescenti negli anni 70, ora è sola, povera e disperata. Laura Antonelli si è rivolta a Lino Banfi per chiedere sostegno e lui ha scritto una lettera. Aiutiamo Laura Antonelli. È questo l'appello accorato lanciato oggi da Lino Banfi al ministro dei beni culturali Sandro Bondi attraverso una lettera aperta pubblicata dal Corriere della Sera. Banfi racconta di aver incontrato l'attrice, ex icona del cinema sexy anni 70, nella sua modesta casa di Ladispoli, dove all'amico comico ha confessato di essere disperata, di vivere con una pensione di appena 510 euro al mese e con i doni della parrocchia e di qualche benefattore. Sono morta da anni, ha detto a Banfi. La sua unica compagnia, a parte una signora che va a trovarla 2 o 3 volte alla settimana, è la preghiera. Dopo il successo e una celebre love story con Jean-Paul Belmondo, l'inarrestabile declino dell'Antonelli ebbe inizio nel 91 per una storia di droga. Nella sua villa di Cerveteri vennero trovati 36 grammi di cocaina. Arrestata dai carabinieri, dopo qualche giorno di carcere ottenne i domiciliari. Condannata in primo grado a 3 anni e 6 mesi per spaccio di stupefacenti, soltanto 9 anni dopo, nel 2000, venne assolta dalla Corte d'Appello di Roma. Dopo un breve ritorno sul grande schermo con Malizia 2000, a causa degli effetti di un disastroso intervento di chirurgia estetica, decise di sparire dalla circolazione. Ora la richiesta di aiuto a Banfi e l'appello del comico rivolto, oltre che a Bondi, al presidente del Consiglio Berlusconi perché le dia una mano. Ti prego Lino, parla con qualcuno, ha detto l'attrice. Tu sicuramente, amato da tutti, sarai ascoltato. Io non credo di avere ancora molto da vivere, vorrei però vivere dignitosamente. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13.19 minuti, le notizie di GR24. Ci fu mancato allarme per il terremoto dell'Aquila. Con questa accusa sarebbero stati inviati avvisi di garanzia a sismologi e protezione civile. Verso casa gli attivisti italiani arrestati da Israele. Non rispettati i nostri diritti, dice Emanuele Zani, che è già a Roma. Nuova bacchettata dell'Europa, le donne del pubblico impiego vadano in pensione a 65 anni, dice Bruxelles. È stato un sex symbol, ora è sole povera, l'appello dell'amico Lino Banfi per Laura Antonelli. E noi ripartiamo da Napoli, dall'inchiesta sugli appalti per la sicurezza, con un nuovo indagato eccellente, Giovanna Jurato, attuale prefetto dell'Aquila. Dalle ultime novità emerge che Giovanna Jurato, attuale prefetto dell'Aquila, da persona informata dei fatti diventa indagata nell'ambito dell'inchiesta sull'appalto per la realizzazione del centro elaborazioni dati della Polizia Napoli, che coinvolge anche due società controllate da Finmeccanica. I PM indagano su una presunta associazione a delinquere finalizzata alla turbativa ad asta. Nell'ambito dello stesso procedimento sarà ascoltato sabato anche il vice capo della Polizia, Nicola Izzo. Il prefetto Jurato è stato ascoltato a lungo lunedì scorso dai PM. All'epoca dei fatti, in cui è stato affidato l'appalto vinto da un raggruppamento di imprese con capofila Elsag Datamat, controllata da Finmeccanica, era direttore centrale del servizio tecnico logistico del Dipartimento di Polizia. Laura Vigiano, GR24, Sole 24 Ore, Napoli. E sugli appalti al G8 intanto nuovi racconti emergono dalle carte di Perugia. Bertolaso è atteso la prossima settimana, ha detto: fornirò tutti gli elementi necessari a sgomberare definitivamente il campo da illazioni. Si infittisce la lista dei presunti inquilini a carico di Anemone Balducce della Cricca dei Grandi Appalti. Al momento i pubblici ministeri perugini non hanno riscontri su quanto affermato da Angelo Zampolini su Antonio Di Pietro. L'architetto ha messo a verbale davanti ai giudici del Tribunale di Perugia che fu Balducce a procurare due appartamenti per il leader dell'IDV, versione smentita seccamente dall'ex ministro. Intanto sull'appartamento in via Giulia, dove visse Bertolaso nel 2003, il proprietario sostiene di aver ricevuto i soldi dell'affitto dell'architetto Zampolini, probabilmente denaro di Anemone. Il capo della protezione civile continua però a ribadire la sua versione. Quella casa mi venne messa a disposizione gratuitamente da un amico personale, che a questo amico però non lo rivela, per non esporlo alla macelleria mediatica, dice, ma afferma che lo renderà noto ai PM quando lo sentiranno la prossima settimana nel capoluogo umbro. Beatrice Vergari, GR24. Il Sole 24 Ore, Perugia. La marea nera nel Golfo del Messico, la BP ci riprova, ma dice no al regista di Avatar. La sua disponibilità e competenza sono affondate, come il Titanic di cui ha raccontato la tragedia. Il regista James Cameron è stato messo da parte dalla compagnia petrolifera BP. Voleva dare una mano ai tecnici per esplorare con le apparecchiature più moderne i fondali del Golfo del Messico, da cui continua a fuoriuscire petrolio. La società però l'ha liquidato e tenta da sola di incappucciare la falla del greggio. Un'occasione persa per la BP. Cameron è considerato un grande esperto di esplorazioni sottomarine. Il regista non ha preso bene il rifiuto della compagnia petrolifera. Avrebbe definito gli uomini della BP come degli imbecilli che non sanno quello che fanno. I tentativi in corso però sono complessi, come spiega Roberto Guercio, professore di costruzioni idrauliche e marittime alla Sapienza. La profondità a cui vengono a trovarsi il pozzo è di circa 1500 metri e le tecniche sono state provate fino ad oggi a profondità molto più ridotte e in condizioni di pressioni molto meno intense. Non è giustificabile la riduzione dell'attività di manutenzione straordinaria prima che l'incidente accadesse. Roberto Bonaldi, GR24, Il Sole 24 Ore. La notizia ve l'abbiamo appena raccontata, l'appello di Lino Banfi per Laura Antonelli, povera e sola, così scriveva oggi in una lettera all'amico Lino Banfi. Ebbene, notizia di pochi istanti fa, il ministro della cultura Sandro Bondi ha sottoposto al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e al sottosegretario alla presidenza Gianni Letta l'appello di Lino Banfi. In seguito a questi colloqui sarà avviata al più presto, ha spiegato Bondi, la richiesta della procedura per il riconoscimento della legge Bacchelli a favore di Laura Antonelli, legge, ricordiamo, in soccorso degli artisti che versano in difficoltà economiche. Danilo Restivo, detenuto in Gran Bretagna per l'omicidio della sarta Ether Barnett, è a Londra. Il giudice inglese gli ha notificato il mandato d'arresto europeo, così gli viene formalmente incriminato anche per l'omicidio della studentessa potentina Elisa Claps. E siamo al calcio. Cesare Prandelli non è più l'allenatore della Fiorentina. Al prossimo CT della Nazionale ha lasciato la sede della società Viola, dove è rimasto per una quarantina di minuti circa, firmata la rescissione del contratto. E stasera intanto l'Italia di Marcello Lippi affronta il Messico in amichevole. Si attende di vedere Marchisio giocare nell'inedita posizione di trequartista. Ora che finalmente tutti i dubbi sono stati sciolti e Lippi ha deciso i giocatori da portare in Sudafrica, con la sola incognita su Camoranesi infortunato, ora finalmente si gioca. Stasera Bruxelles alle 19.15 contro il Messico, la prima delle due amichevoli premondiali. Proveremo l'assetto più volte testato in questi giorni, con qualche variante negli uomini, ha detto ieri Lippi. Probabile dunque che Marchisio giocherà dietro le punte, con Girardino al centro dell'attacco e Iaquinta e Di Natale laterali. Subito dopo la gara ritorno al Sestriere, per continuare a prepararsi in condizioni ambientali simili a quelle del Sudafrica. Intanto l'allenatore del Messico, Javier Aguirre, ha detto che stasera la sua nazionale sarà diversa dalla formazione tipo che giocherà ai mondiali. Contro l'Italia ha dichiarato: non metterò in campo i miei 11 giocatori di lusso. Matteo Finco, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:25 minuti, in regia Paolo Corleoni, e ancora un saluto da Anna Migliorati, che ha curato e condotto questa edizione del giornale. Per il momento terminiamo qui, la prossima edizione di GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.